Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Questo magenta intenso fu chiamato rosa shocking negli anni 30, rosa caldo negli anni 50 e rosa stravagante negli anni 60. Appare nell'avanguardia di più di una rivoluzione giovanile. Ad alcuni canta, ad altri urla. Come ricorda la scrittrice Ellen Varley, è noto che a inventare il nome rosa shocking a metà degli anni 30 sia stata la stilista Elsa Schiaparelli. Ed è noto che se il colore azzurro si addice ai maschi, il rosa, colore simbolo della fertilità, si abbini meglio al sesso femminile. Tuttavia, nonostante il rosa sia davvero un colore poco amato dai maschi, c'è un'eccezione a conferma di questa regola raramente infranta. Un'eccezione, sarebbe più corretto chiamarla un rito, che ogni giorno un esercito di quasi 5 milioni di maschi italiani consuma recandosi in un'edicola, sorseggiando un caffè al bar, in treno o in metropolitana, fingendo un'aria distratta e noncurante. Probabilmente è l'unica cosa rosa della quale si interesseranno durante la giornata, ma in quella manciata di minuti l'attenzione che riservano all'oggetto che sfogliano è pressoché totale. Poco più di 50 pagine di delirio color rosa che strappano momenti di gioia, tristezza, esultanza e imprecazione. Sembrerebbe il libro dell'Apocalisse, invece è la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport, tutto il rosa della vita. Oggi vi raccontiamo di vicende intrecciate tra di loro, di storici giornalisti italiani, di leggendarie corse ciclistiche e straordinari uomini e giornalisti, del coraggio di essere i primi a pensare qualcosa di nuovo e di grande anche contro le avversità e i problemi, le ristrettezze economiche, i drammi personali. Dobbiamo solo montare sulla bicicletta del tempo e pedalare all'indietro fino al lontano 3 aprile 1896. Infine, bussare alla porta di una piccola redazione di via Pasquirolo a Milano. Ad attenderci sono Eugenio Camillo Costamagna ed Eliso Rivera, i due fondatori di un giornale sportivo che hanno battezzato la Gazzetta dello Sport, nato dalla fusione di due fogli specializzati di argomento ciclistico, il settimanale Il Ciclista e il bisettimanale La Tripletta. Non hanno molto tempo, stanno scrivendo il primo editoriale della storia del giornale, che vale la pena rileggere insieme. Nell'antica Grecia lo sport era la sublimazione della forza fisica unita al sentimento artistico. L'atleta, nel maximum dello sforzo, conservava il sorriso sulle labbra e la più plastica delle pose. Presso noi moderni lo sport ha significati diversi. Se prima la vittoria di un atleta era appena notata, più tardi divenne oggetto di commenti e ora si cerca con curiosità di conoscerne l'esito in precedenza degli altri. Nessuna istituzione mette in gioco le legittime ambizioni nazionali quanto lo sport. Esso, sotto forma la più cortese e la più amichevole, riunisce tutte le rivalità, eccitando una curiosità immensa nell'animo di tutti. Per trattare quindi lo sport, bisogna sentirsi in grado di correre coi tempi, prevedere, arrivare. I giornali sportivi non devono soltanto fornire le notizie, commentare il progresso, registrare il successo. No, essi devono predire, correre l'alea stessa di tutte le cose di questa fine secolo, devono arrivare. La Gazzetta deve il suo nome alla Gazzetta, piccola moneta veneziana d'argento con la quale si poteva acquistare un giornale nel 1500. Ma la Rosea e i suoi intrepidi fondatori non sono, tuttavia, i principali protagonisti del nostro incrocio odierno. A bussare alla porta della redazione di via Pasquirolo in un giorno di primavera del 1889 è un giovane reggiano giunto a Milano dopo aver percorso l'intero tragitto da Reggio Emilia in sella a una bicicletta. Armato di passione bruciante per il giornalismo sportivo e per le due ruote, l'entusiasta ciclista ha soltanto 18 anni e si presenta a Costamagna con un nome che ne tradisce le origini nizzarde. È lui il nostro primo protagonista. Si chiama Armando Cugnet. Armando Cugnet. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Sera, se ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il ciclismo è la fanteria che, allorché trova l'eroe convinto della giustezza della causa, stacca di mille miglia le truppe specializzate. Questa è solo una delle molte definizioni che Cugnet darà del ciclismo nel corso della sua lunga carriera, ma che ben si addice al difficile clima che Armando trova in redazione ai suoi inizi. Nel 1898 Milano è stravolta dai moti popolari di protesta contro la disoccupazione e i ribassi ai salari voluti dal generale Bava Beccaris. È un momento difficile per la città, che coinvolge anche il cofondatore della Gazzetta, Eliso Rivera, che viene incarcerato perché sospettato di far parte della rivolta e poi rilasciato 22 giorni dopo per insufficienza di prove. Provato dalla durezza della situazione, non tornerà più al giornale. Lo sostituisce il redattore della Scherma, Roderico Rizzotti, che affianca Costamagna come direttore. I due, nonostante la pesante situazione cittadina, non si scoraggiano. Trasferiscono la redazione in via Santa Radegonda e per stampare il giornale si rivolgono alla tipografia Golio, nella vicina via Agnello. La famiglia Golio è solita utilizzare per la stampa della Gazzetta una comune carta di colore bianco. Ma già dal 2 gennaio 1899 è scelto definitivamente il rosa, colore ritenuto più adatto ad attirare i lettori sui temi meno impegnativi di quelli politici che occupano la maggior parte delle pagine degli altri giornali dell'epoca. La novità è comunicata ai lettori sul numero del 27 dicembre 1898, con un titolo a tutta pagina, il primo nella storia del giornale. Il nuovo colore si impone subito e il rosa diventa il simbolo distintivo del giornale fino ai nostri giorni. Sentiamo cosa ne pensa della Gazzetta Pier Giovanni Sciascia, collaboratore del quotidiano. Beh, diciamo che il segreto del successo sta nel suo DNA. La Gazzetta dello Sport vive ormai da 114 anni e ogni giorno si rinnova, cerca di rinnovarsi sempre al meglio per offrire contenuti e servizi ai suoi clienti, lettori, ma anche al mercato pubblicitario, offrendo sempre nuovi contenuti e nuovi servizi. A partire dal 1899 la Gazzetta esce 3 volte la settimana e il supplemento illustrato passa da mensile a quindicinale. Si organizza anche il primo avvenimento sportivo, un incontro di scherma tra Agesilao Greco e il belga Desmé. E nel 1902 la redazione allestisce la prima manifestazione sportiva popolare, la gara podistica Milano-Monza-Milano. Il giornale cresce, la tiratura sale a 36.000 copie. Per divergenze sulla conduzione Rizzotti si dimette. Costamagna diviene direttore unico del giornale e nomina capo redattore il giovane Edgardo Longoni. Il suo sarà un breve regno. Poco dopo meno di 2 anni lascia infatti il posto a una nuova figura che entra in Gazzetta con tutta la sua forza creativa. Si tratta di un giovane forlivese innamorato di giornalismo che ha fatto le sue prime esperienze sull'Italia del popolo. Presto lo seguiremo entrare in Gazzetta e incrociare il suo destino con quello di Armando Cugnet, che nel 1902 è ormai diventato una colonna del giornale. È duopo vedere rosa. È una ferma convinzione di Cugnet, uomo di cultura e dotato di raffinato sense of humor. Si riferisce al rosa delicato del suo giornale, ma anche alla visione ottimistica che ha dello sport in Italia, che in quegli anni vede moltiplicarsi le competizioni sportive e l'entusiasmo con cui sono accolte dal pubblico, inducendo i quotidiani a una maggiore attenzione. Gli editori fiutano l'affare e affidano ai primi giornalisti specializzati la promozione delle manifestazioni agonistiche. Ma è soprattutto il ciclismo che annovera sempre più appassionati a rivaleggiare prepotentemente con discipline classiche come il tiro a segno, il canottaggio, la ginnastica. Lo sport, alla fine dell'Ottocento, ha iniziato ad acquisire in tutto il mondo una notorietà e una dignità sempre più alte, al punto da convincere il barone de Coubertin, nel 1894, a creare il Comitato Olimpico Internazionale, seguito 2 anni dopo dalla prima Olimpiade moderna ad Atene. L'importante non è vincere, ma partecipare. La cosa essenziale non è la vittoria, ma la certezza di essersi battuti bene. In Italia, dal 1885, anno di fondazione della federazione, il ciclismo raccoglie attorno a sé estimatori e pubblicazioni editoriali. Si corre e si scommette al velodromo Umberto I di Torino, sulla terra battuta di Alessandria, al Trotter di Milano. E anche se lo sport delle 2 ruote nasce come passatempo per ricchi, un velocipede costa inizialmente quasi 1 anno di lavoro di un operaio, è avversato in diversi ambiti. I cattolici lo definiscono anarchico e il Vaticano lo vieta ai preti. I socialisti lo ritengono invece un inganno per distogliere le masse dalla lotta politica. Tuttavia, ogni settimana sono in programma numerose corse e gran premi, riunioni che arrivano ad avere anche 20.000 spettatori e che richiamano campioni stranieri. Basta scorrere l'elenco delle testate che nell'ultimo decennio dell'Ottocento si occupano di ciclismo per dare un'idea di come la bicicletta stia diventando uno sport sempre più popolare. l'illustrazione ciclistica a Milano, il ciclo giornale di sport a Brescia, il ciclista veneto a Verona, la rivista velocipedistica a Torino, solo per citarne alcuni. E naturalmente, da qualche tempo, anche la Gazzetta dello Sport, dove si aggira un Cugnet convinto che sia necessario organizzare un evento di interesse transnazionale. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà. Una bici vuole fama e chilometri, e chilometri. Una bici è una dama, falla vincere, falla ridere. Ma Cugnet non è certo il solo a muoversi nel grande fermento del giornalismo sportivo di fine XIX secolo. Il Resto del Carlino di Bologna scrive uno dei notiziari sportivi più completi e brillanti già dal 1890. E il Corriere della Sera, da qualche anno, organizza una Torino-Milano ciclistica molto seguita dagli appassionati. Armando, in questa fervida alba di inizio secolo, è convinto che anche la Gazzetta, nata dalla fusione di due testate quali Il Ciclista e La Tripletta, non possa esimersi da diventare protagonista nell'organizzazione di importanti eventi ciclistici. Ad aiutarlo sta per giungere in redazione quel giovane forlivese pieno di idee che ha collaborato con l'Italia del Popolo, facendosi le ossa. Il nome che scrive in calce ai suoi articoli è quello del secondo protagonista di oggi, Tullo Morgagni. Tullo Morgagni. Nello sport risiede il moto necessario e sufficiente per indurre la gioventù, in se stessa fiera e prepotente, a risollevarsi dall'ignavia di quest'epoca. La cosa che più colpisce Cugnet di Morgagni è lo spirito di iniziativa. Anche Tullo, come Armando, è appassionato di due ruote, ma nel suo caso, da buon romagnolo, predilige inizialmente quelle spinte da un motore. È lui, infatti, che con il patrocinio della Gazzetta e il placet di Costamagna e Cugnet organizza la prima competizione motociclistica italiana. La 1000 km a squadre, che si disputa il 26 giugno 1904 con partenza da Rogoredo alle porte della città, vinta da Tramagni su Marchand. Il buon ritorno di immagine e l'ottimo lavoro svolto da Morgagni nell'organizzazione dell'evento convincono Cugnet ad affidargli l'anno successivo il compito di organizzare una corsa ciclistica internazionale destinata a divenire un appuntamento classico del ciclismo italiano, il Giro di Lombardia. Ormai non lo prendono più, non lo prendono più, eccolo che arriva sulla rettilineo di arrivo, Oliver Zaug, l'uomo che non ti aspetti, il nome che non ti aspetti sul traguardo di Lecco del Giro di Lombardia. Cugnet e Morgagni diventano una fiatata macchina organizzativa. Sembrano inconsapevolmente prepararsi per quello che diventerà l'evento al quale legheranno il loro nome per sempre. Al momento corre l'anno 1907. Tullo decide di proporre a Costamagna e Cugnet l'organizzazione di una corsa ciclistica sul percorso di una gara automobilistica a tappe inventata dai membri dell'Unione Sportiva Sanremese. Nasce così la Milano-Sanremo, detta la Classicissima, ancora oggi considerata una delle più importanti corse in linea del ciclismo internazionale. Tullo e Armando organizzano la gara con la consueta capacità e dedizione, ma il 14 aprile, all'osteria della Conca Fallata lungo il Naviglio Pavese, ritrovo fissato per la partenza della gara, un brivido corre sulle schiene dei due giornalisti. La primavera tarda a farsi vedere in quel lontano aprile del 1907. Piove, fa molto freddo. E così al via si presentano solo 33 dei 62 iscritti. Cugnet e Morgagni sono preoccupati e delusi, ma si attivano per rincuorare gli atleti, trovano ombrelli, coperte calde, offrono tazzoni di caffè caldo della Conca Fallata. I ciclisti si convincono, finalmente si parte. Al termine dei 281 km della gara trionfa il francese Lucien Petit-Breton alla media di 26 km all'ora. Ampio spazio è dedicato all'avvenimento sulla sempre più letta e amata Gazzetta color rosa. Quando da Milano la Gazzetta lanciò la corsa al sol, la corsa al mare, tutti gli assi della bicicletta ebbero un sogno sol partecipare. Noi raggiungeremo la riviera in fior, fiori di Sanremo per il vincitore. Sotto lo striscione di partenza noi stiamo ad aspettare, pronti a scattare. Cugnet e Morgagni non sono gli unici a pensare a un ciclismo in grande. Al Corriere della Sera, già nei primi anni del Novecento, capace di una tiratura di circa 300.000 copie, la redazione sportiva, sullo slancio di un riuscito giro automobilistico, ne sta progettando uno di biciclette con la collaborazione del Touring Club d'Italia e della Bianchi, premiata casa di cicli da corsa. Sarà una corsa in grande, una gara che porti il ciclismo dove è meno conosciuto. Da qualche tempo anche Morgagni e Cugnet stanno progettando una grande corsa a tappe sul modello del Tour de France. L'idea è di una corsa che attraversi tutta la penisola e unisca sotto la bandiera del ciclismo l'Italia intera e che sia dura, lunga, ma bella da raccontare sulla Gazzetta. I primi di agosto Morgagni viene a sapere che il Corriere sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per una presentazione in grande stile del progetto. Capisce che non c'è tempo da perdere, ma in quella calda estate del 1908 Costa Magna e Cugnet sono fuori Milano per le vacanze e a Tullo non resta che spedire a entrambi un telegramma dal testo tanto urgente quanto perentorio. Improrogabili necessità obbligano Gazzetta a lanciare subito Giro d'Italia. Rientrato precipitosamente a Milano, il trio Morgagni-Cugnet-Costa Magna, nel corso di un'infuocata riunione, decide che non soltanto va annunciato il Giro d'Italia, ma si deve farlo in modo plateale, per scongiurare qualsiasi ipotesi concorrenziale. Una scelta rischiosa, poiché al tempo non vi è alcuna garanzia economica sulla possibilità di realizzare l'evento. Due settimane più tardi, al termine di un febbrile lavoro di preparazione della bozza di regolamento e di ipotesi di percorso, il giornale annuncia la nascita del primo giro ciclistico d'Italia. A modo suo, con un grande titolo a tre colonne sulle sei disponibili. La Gazzetta dello Sport, dopo aver seguito la nuova gloria del ciclismo italiano e creata la sua rinomanza, indice per la prossima primavera il primo Giro d'Italia. Quanti pensieri si accumulano, oh, ne sento il peso su di me. Questa salita non finisce mai, mi sta bloccando i muscoli. La fatica non significa niente. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo assistendo alla nascita di un avvenimento sportivo tra i più antichi e leggendari del nostro paese. Il primo Giro d'Italia ciclistico, grazie alla passione e alla determinazione di due giornalisti italiani della Gazzetta dello Sport, sta per essere annunciato agli sportivi italiani dalle sue pagine rosa. Il 24 agosto 1908, la prima pagina ospita un editoriale sull'ipotesi di percorso e la sintesi del regolamento di corsa. Il tracciato è approssimativo e ipotizza sconfinamenti a Nizza e a Trieste. L'annuncio dei premi parla di 25.000 lire, un montepremi difficile da mettere insieme, ma al quale contribuisce proprio quel Corriere della Sera che, persa la corsa, abbina il suo nome a quello del primo premio al vincitore. Ecco come Cugnet ricorda il trio dei fondatori. I fondatori del Giro vanno citati in ordine di statura. Eugenio Costamagna, direttore del giornale, 1,88 m. Armando Cugnet, amministratore e redattore del ciclismo, 1,75 m. Tullo Morgagni, redattore capo, 1,64 m. A Cugnet, oltre alle doti giornalistiche e organizzative, non è mai mancato lo spirito. Ma ciò che realmente manca in Gazzetta in quei fatidici anni sono i soldi. Gli stipendi sono bassi, poiché i giornalisti non godono ancora della definizione di professionisti. Ci si arrangia in ogni modo possibile, anche se spesso il sabato non ci sono i soldi per pagare la tipografia. Ma ciò che conta davvero sono le idee. Sentiamo ancora le parole di Cugnet in merito alle intuizioni dei giornalisti della Gazza. Giovanni Canestrini, del resto responsabile dell'automobilismo, ebbe l'illuminazione della Mille Miglia una vigilia di Natale, mettendola al mondo nel suo studiolo di Via Cavalieri con i bresciani Mazzotti, Castagneto e Monti. Il bello, il sublime, nascono a volte da un'irritazione nervosa. Quanto alla Gazzetta dello Sport, gli altri mangiano tutti la lepre che la Gazzetta ha messo in pentola. Passati 103 anni e 94 edizioni, la storia del Giro si è riempita di campioni, epici duelli, trionfi, cadute e fiumi di inchiostro nero su carta rosa. La prima edizione prende il via nella notte da Milano, in piazzale Loreto. Sono le 2:53 del 13 maggio 1909 e la prima di 8 tappe può finalmente partire. Al via in 129, tutti i migliori dell'epoca. Da Gerbi a Rossignoli, da Ganna a Galetti e il baffuto francese Petit Breton, fresco vincitore della Milano-Sanremo. L'arrivo della prima tappa è all'ippodromo di Bologna, a conclusione di 397 durissimi chilometri, gli ultimi percorsi sotto la pioggia battente. è decisa da una volata 8 che vede la vittoria del romano Dario Beni. Gli arrivi si susseguono fino a notte fonda, quando il traguardo è spostato dall'ippodromo alla vicina osteria del Chiù, dove gli esausti corridori vengono rifocillati con brodo caldo. Diversi gli infortunati, fra i quali Petit Breton, che a Desenzano si scontra con una coppia di buoi. La pioggia, il fango negli occhi, i dolori al ventre per i colpi di freddo accompagnano buona parte del percorso e causano il ritiro dei primi atleti. Ciclismo di altri tempi, si dirà, ma gli ardimentosi che lo corrono sono uomini dalla tempra eccezionale. Alla fine dei 2448 chilometri, solo 49 raggiungeranno il traguardo, salutati alla stregua di eroi inarrestabili. E il sorriso un po' triste di quegli occhi in salita è un ricordo sbiadito. Ora vai, vai, vai in fuga da tutti noi. Oh, mai, mai, mai e poi mai la pioggia ti fermerà. Mentre i primi intrepidi ciclisti del Giro consumano le loro fatiche tappa dopo tappa, anche per gli organizzatori l'attività è frenetica. In Piazza Castello ogni mattina sono appesi i dispacci telegrafici, unico modo per avere aggiornamenti e consentire ai tifosi di seguire l'evolversi della corsa per poi attendere il giorno successivo per la lettura della Gazzetta. Giorno dopo giorno Cugnet, Morgagni e tutto il resto della redazione si alternano chi al seguito della gara, chi di notte al giornale a battere articoli, editoriali, classifiche e previsioni. Dopo la prima tappa di Bologna, il 17 maggio, si riparte lungo la via Emilia passando per Imola, dove alle 6 di mattina un cronista annota: nonostante l'ora, la gente tutta è già in piedi e i negozi aperti, segno dunque di vivissima aspettazione. Si transita per Faenza, Forlimpopoli, Cesena, poi finalmente il mare e il litorale che porta alla salita della Siligata. È qui che si assiste al primo brutto episodio della storia di un giro ancora lontano dai futuri scandali del doping. Le cronache informano di tre corridori che, nascoste le biciclette alla stazione di Ancona, hanno poi percorso in treno il tragitto fino a Grottammare d'Ascoli, circa 100 chilometri, per poi rimontare in sella verso Chieti, finale di tappa. Ma quel primo tentativo di privare il ciclismo del motto olimpico di De Coubertin termina con la squalifica dei tre ciclisti prontamente notati dai commissari di gara, tra i quali c'è Armando Cugnet. Non c'è troppo tempo da dedicare a un episodio che oggi fa sorridere, anche se è indizio di quanto allora come oggi sia sentita la competizione nel ciclismo sportivo. Si devono ancora correre le tappe finali che vedono i corridori rimasti in gara risalire l'Italia ad ovest, lungo le tappe di Napoli, Roma, Firenze, Genova e Torino. Il Giro e il Tour sono il mondo delle essenze caratteriali. L'aristocrazia di un Giro e di un Tour è composta da coloro che si salvano. Coloro che si salvano, scrive Cugnet. Ed è davvero il caso di ricordarlo, il 30 maggio 1909, quando Luigi Ganna, muratore varesino dal fisico possente, taglia il traguardo dell'Arena Civica trionfando nel primo Giro d'Italia. Alle sue spalle soltanto altri 48 dei più di 100 partiti due settimane prima. Noto per la sua schiettezza, Ganna resta negli annali del giornalismo sportivo, oltre che come primo vincitore del Giro, anche per la lapidaria risposta che dà al cronista che lo sollecita a esprimere un commento a caldo, chiedendogli quale fosse la sua impressione più viva dopo la vittoria. L'impressione più viva? La che mi brucia tanto al cu. Oltre al bruciore del fondoschiena, Ganna porta a casa anche il premio di 5.325 lire, che per i tempi rappresentano una cifra di tutto rispetto. Lo stipendio del direttore della gara e co-inventore del Giro, Armando Cugnet, ammonta infatti a 120 lire mensili. Il primo Giro termina così nel migliore dei modi, con ali di folla ad accompagnare l'arrivo dei ciclisti stremati e grande cassa di risonanza per la Gazzetta dello Sport. Il giorno dopo, in redazione, Armando Cugnet e Tullo Morgagni possono finalmente festeggiare un'impresa del tutto eccezionale, stringendosi in un abbraccio di reciproca stima. Al termine del primo Giro d'Italia, il giornale da qualche mese si è già trasferito da Via Radegonda a Via della Signora. La nuova tipografia è dotata della tecnologia più moderna. Una stampatrice Linotype, affiancata da una veloce rotativa König & Bauer che permette una tiratura di 100.000 copie. Traguardo record per un giornale sportivo nel periodo. Dal 1910 i redattori diventano professionisti e percepiscono i loro primi regolari stipendi, da 100 a 500 lire al mese. E nel 1913 nasce lo Sport Illustrato, periodico quindicinale della Gazzetta sotto la direzione di Tullo Morgagni, che ne scrive la presentazione nel consueto appassionato modo. Il nuovo periodico della Gazzetta dello Sport nasce per dare un completo quadro di tutti gli avvenimenti di cui è ricca l'odierna attività sportiva italiana ed estera, illustrandone copiosamente i più notevoli, stimolare la gioventù con la riproduzione eloquente dei grandi fatti, più che soddisfare una curiosità, indicare con la dimostrazione grafica i vari mezzi utili per raggiungere la perfezione, premiare con la fotografia coloro che nello sport hanno saputo eccellere. Il periodico, stampato in una edizione di gran lusso su carta americana e in grande formato sull'esempio delle maggiori riviste illustrate straniere, riporta disegni, illustrazioni, fotografie e incisioni, copertine a colori. Il costo è di 40 lire. Morgagni va giustamente orgoglioso di una carriera che lo vede sempre più lanciato nel mondo del giornalismo e dell'organizzazione di eventi sportivi. Tullo è un uomo di eclettiche passioni e tra queste forse superiore a qualsiasi altra c'è anche quella per il volo. In vista dell'imminente entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale, decide di modificare la testata in Lo Sport Illustrato e la Guerra e poi solo nel Secolo Illustrato. Morgagni, nel suo giornale, non si limita a citare nomi e documentare episodi, ma anche a organizzare premi per gli aviatori che più si distingueranno in combattimento. Il giornale diviene molto popolare tra i piloti, al punto da convincere Tullo a creare una rivista specializzata nel volo che battezza Il Cielo. Lo scopo è quello di raccontare e celebrare le gesta e le imprese degli aviatori italiani, tra questi Arturo Ferrarin, valoroso pilota da caccia che acquista fama mondiale grazie al raid Roma-Tokyo, che ascoltiamo raccontato in un audio dell'epoca. Di ben altro valore aviatorio è l'impresa di Arturo Ferrarin nel 1920. A bordo di un vecchio SVA, il coraggioso pilota compie l'incredibile raid da Roma a Tokyo, accolto dalla popolazione giapponese come un eroe nazionale. L'uomo falco vola in alto sul suo trono di diamanti, per natura nega sempre ed è muto come un pesce. Lui è uomo falco. Destini incrociati. A Destini incrociati stiamo seguendo le vicende di due giornalisti sportivi italiani, Armando Cugnet e Tullo Morgagni, che hanno dato vita alla manifestazione sportiva italiana tra le più seguite e amate di sempre, il Giro d'Italia in bicicletta, intrecciando le loro vicende a quelle del giornale al quale hanno dedicato la vita professionale, la Gazzetta dello Sport. Mentre allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Cugnet ne diviene il direttore, Morgagni si dedica alla creazione e direzione di un giornale dedicato ai combattenti del cielo. Il volo, infatti, è la sua seconda grande passione. Tullo, fermamente convinto che l'aeroplano sarebbe stato il mezzo di spostamento prevalente del futuro, si divide tra l'attività di giornalista e quella di sensibilizzazione al fine di trasformare al più presto l'aviazione militare in civile. Ma ciò che ama fare davvero, ancor più che scrivere e informare, è volare lui stesso, e specialmente farlo al fianco di Luigi Ridolfi, amico aviatore di Forlì, vincitore del premio Bombardieri del Cielo, indetto da Morgagni, e ora, a guerra conclusa, pilota collaudatore alla Caproni. Una passione che all'ancora giovane giornalista costerà purtroppo cara. È la mattina del 2 agosto 1919. Tullo e Luigi stanno volando insieme nei cieli di Verona al rientro da un volo di collaudo. Sono allegri in quella calda estate, la prima di pace dopo gli orrori della guerra. Parlano di aeroplani, del futuro che attende loro e il paese, di giornali e di ciclismo, quando improvvisamente il biplano Caproni 600, pilotato dallo stesso Ridolfi, entra in avaria per precipitare qualche minuto dopo. Lo schianto non lascia scampo ai due amici. Morgagni si congeda da una vita piena di progetti e nuove sfide a soli 40 anni, 10 anni dopo aver dato il via al primo Giro d'Italia. Il nero inchiostro della Gazzetta dello Sport, che il giorno successivo ne annuncia mestamente la scomparsa, è segno di lutto profondo su quel rosa che ha fatto così intensa parte della vita di Tullo Morgagni. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara. Dopo l'addio di Morgagni, gli anni venti sono quelli della definitiva consacrazione della Gazzetta. Sotto la direzione di Emilio Colombo, il giornale alimenta le grandi rivalità fra i campioni come Girardengo e Belloni, o Binda e Guerra, portando il tifo ciclistico a livelli mai visti in precedenza. La tiratura del quotidiano raggiunge vertici eccezionali, con punte di 500.000 copie. Nel 1926 il giornale ha finalmente una sede tutta sua, un fabbricato di quattro piani in via Galilei, costruito sui terreni dell'ex birreria Spluga. Negli anni 30 si organizzano manifestazioni in tutti i rami dello sport: atletica, ciclismo, motociclismo, lotta, scherma, sci, nuoto, pugilato, pesistica e la logistica della mille miglia. Per Cugnet sono anni intensi e memorabili, diviso tra le incombenze al giornale e l'organizzazione, anno dopo anno, di un Giro d'Italia sempre più complesso, e del quale è diventato il definitivo e rispettato patron. Di chi è la maglia rosa? Di chi è? Di chi è? Di chi è? La maglia rosa, la maglia rosa, è quella cosa che mai non riposa. Chi la conquista domani la può perdere, e chi la perde può ritrovarla con facilità. Ma di chi sarà? Ma di chi sarà? Di chi sarà? Di chi sarà? Di chi sarà? Nel 1931 Armando ha un'ultima grande idea da regalare al Giro. Da qualche tempo pensa di assegnare una maglia speciale da far indossare al corridore leader della classifica generale, al fine di renderlo più riconoscibile alle ali di folla che sempre accalcano le strade della corsa. Il colore, ne è convinto, non può che essere quello di tutta la sua vita professionale. La mitica maglia rosa nasce così, grazie all'ennesima intuizione di un giornalista geniale. Da quel momento il ciclista con il colore che nessun altro indossa diviene facile da individuare, mischiato al gruppone o in fuga per conservare la maglia, come è nel gergo del giornalismo sportivo. Le maglie rosa della carriera di Cugnet si chiamano di volta in volta Girardengo, Binda, Guerra, Bartali, Coppi, Magni e molti altri nomi entrati nelle leggendarie cronache del ciclismo e della Gazzetta. Ma le prime maglie rosa sono loro, di Armando Cugnet e Tullo Morgagni, due pionieri del giornalismo che sono andati in fuga regalando un giornale rosa e una splendida gara ciclistica a milioni di italiani. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare per me che sono fuggito subito.